Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. La motivazione personale che mi ha portato a concepire l'idea di tornare è l'insieme di tre ragioni. Il lavoro che stavo facendo all'estero sta declinando. Ho imparato ad apprezzare cose dell'Italia che non apprezzavo prima proprio stando all'estero. E poi, in un certo senso, secondo me, spero che sia vero, c'è una fase di cambiamento in Italia. Abbiamo veramente toccato il fondo. Se non ci rialziamo adesso, allora non ce n'è veramente di più per il futuro. Quindi spero che sia il momento giusto. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi è un altro giovane imprenditore controesodato, Luca Morganti, 37enne ingegnere ambientale, tornato dalla Cina grazie al bando Welcome Talent Business del Comune di Milano, a spiegarci perché fare ritorno nella penisola, nel suo caso per realizzare impianti fotovoltaici. Oggi la frase della settimana è copyright della Didi Fiat Marchionne, che dice: ai giovani ricordo l'importanza di saper preparare la mente ad accogliere il nuovo e lo sconosciuto. Chi non è in grado di vedere prospettive diverse, di ascoltare opinioni differenti, di andare oltre la propria limitata esperienza, perde l'opportunità di vivere con pienezza. Per Marchionne abbiamo il dovere umano e professionale di riconoscere il talento e valorizzarlo. Serve, per dirla con il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, una terapia d'urto vera e propria basata su una forte discontinuità con le pratiche su cui ci siamo adagiati negli ultimi 15 anni. Servono, rilanciamo noi, modelli completamente nuovi e diversi cui ispirarsi, gettando a mare il libro mastro delle vecchie regole di un'Italia corporativa, familistica e profondamente antimeritocratica. Quello che credo che magari limiti molte aziende in Italia è che si perde tempo ad attivare i progetti perché è necessario il benestare di questo e di quello per poter andare avanti, mentre invece qua se un'idea è valida si porta avanti. Giulia Ferrero, 25 anni, è una recruiter al lavoro per Nike ad Amsterdam. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Nuovi dati dall'indagine Brainback sugli immigrati umbri all'estero: a lasciare la regione sono soprattutto i giovani, l'età media è 35 anni con alto livello di scolarizzazione, il 41% di chi ha risposto al questionario ha un dottorato, il 34% è laureato, vivono e lavorano in paesi europei, in primis Belgio, Regno Unito, Spagna e Germania o in America Latina. Il 50% degli immigrati che ha aderito alla rilevazione dichiara di voler tornare in Umbria, la maggior parte entro i prossimi due anni, più della metà rivela di pensare a un rientro per avviare un'impresa in regione. Tutte le info su brainbackumbria.eu. La crisi rende globetrotter i manager italiani. Negli ultimi tre anni l'esportazione dei nostri dirigenti ha registrato un boom e sono cresciute del 40% le posizioni ricoperte in aziende oltre confine. I manager del bel paese impegnati all'estero sono 5.075% in Europa occidentale, lo rivela un'indagine Amrox. La situazione resta molto grave, soprattutto per la disoccupazione. In 12 paesi su 27 quella giovanile è superiore al 25%. Alcuni stati stanno affrontando una vera emergenza sociale. Servono misure europee più forti, così il presidente della Commissione, Giuseppe Barroso. Apriamo ora un'ampia finestra sull'estero. Partiamo proprio dall'Europa, tra alti e bassi. La Germania continua a confermarsi terra di immigrazione, anche per professioni altamente qualificate e businessmen. Nel 2012 sono stati concessi 6.500 nuovi permessi di soggiorno, diversi da quelli per lavoro dipendente. E c'è un altro motivo di felicità per i cugini tedeschi. Si sta infatti registrando un'inversione di rotta nella fuga dei cervelli dal paese, con sempre più scienziati che lasciano gli Stati Uniti per rientrare in Germania. La Süddeutsche Zeitung rivela che due terzi degli oltre 6.000 ricercatori tedeschi e immigrati negli Stati Uniti tornano dopo pochi anni in patria. Sorride anche la Svizzera, il paese più attrattivo al mondo secondo il Country Brand Index 2012-2013 pubblicato da Future Brand, secondo il Canada terzo il Giappone. In difficoltà invece il Belgio, secondo CafeBabel.com nel 2010 ben 28.000 giovani altamente qualificati hanno lasciato il paese, il 70% in più rispetto all'anno precedente. Qualche grattacapo anche per la Gran Bretagna, con quasi 2 milioni di 25-44enni che hanno lasciato il paese nell'ultimo decennio, lo rivela l'Istituto Statistico Nazionale. L'annuncio ha aperto un dibattito sui motivi del brain drain britannico, a ciò si aggiungono i dati sull'emigrazione dei neolaureati inglesi, 1 su 10 lascia il paese dopo il titolo. E sono sempre di più i francesi, soprattutto giovani, che partono per il Quebec, regione francofona del Canada. Nei primi 9 mesi del 2012 sarebbero arrivati a Montreal 4.000 immigrati permanenti. Critica la situazione in Grecia. Secondo una ricerca dell'Università di Salonicco, la grande maggioranza di migranti o aspiranti Italia appartiene alle fasce più giovani della popolazione, mete preferite Australia, Russia, Cina. Preoccupazione alle stelle in Spagna per l'alto tasso di disoccupazione giovanile che sta provocando un esodo di giovani dal paese. Il numero di 25-29 anni è sceso di 150.000 unità, secondo il Paese.